Oggi mi fermerò un minuto in più su questa festa, la festa del 2 febbraio, popolarescamente chiamata la Candelora o la Ceriola, o non so se per l'Italia ci sono in giro altri nomi. Qui si sottolineano la festa della luce, la festa delle candele, ma la presentazione di Gesù bambino al Tempio e la purificazione di Maria sua madre. Mi fermo un istante, anche se il Vangelo è stato molto chiaro, perché è un mistero importante, rientra dentro anche nei misteri gaudiosi del Santo Rosario. Quarto mistero, Gesù presentato al Tempio e la purificazione di Maria Vergine. Nella mentalità di tanta gente era una festa della Madonna. Ora, anche la Madonna ha la sua importanza in questa festa, ma soprattutto è una festa di Gesù. Che cosa succedeva? Succedeva che 40 giorni dopo il parto la donna poteva uscire, se era maschio, e portarlo al Tempio per essere offerto al Signore, portando in contraccambio al Signore una piccola offerta dei colombi o delle tortole. Insomma, come mai? A ricordo dell'uscita dall'Egitto, quando i primogeniti appartenevano a Dio ed erano stati scampati, a differenza dei primogeniti egiziani, e allora il papà e la mamma dovevano simbolicamente riscattarli da Dio pagando una piccola offerta, appunto quegli animali che poi venivano sacrificati in onore di Dio. Questo stesso gesto lo fa anche Giuseppe, Maria, portando il loro bimbo, offrendolo al Signore. Nella stessa occasione, ecco perché era considerata un po' la festa della Madonna, la donna veniva purificata. Perché era un peccato partorire un figlio? No, ma per gli antichi tutto ciò che aveva a che fare con il contatto col sangue era considerato che rendeva impuro, impura la donna. E allora, siccome nel parto evidentemente il sangue c'è di mezzo, la donna doveva essere purificata. Questo mi permette di fare un'osservazione e di chiedere una preghiera. Credo che raramente, come in questa festa, ci sia un contatto stretto tra la madre e il figlio. Tant'è vero che il vecchio Simeone dice: vedi donna, tu hai la gioia di presentare a Dio un figlio, di ringraziarlo perché ti ha reso madre, però ricordati che a te una spada trapasserà il cuore, sarai gioiosa ma sarai anche l'addolorata. Ecco. E quindi il destino di questo figlio sarà legato per sempre a sua madre e viceversa. Io vorrei fermarmi un istante a riflettere se questo non avviene ancora oggi. Io credo che nel destino di un figlio nessuno sia legato al suo destino come la sua mamma. La mia esperienza di sacerdote e di esorcista mi mette quotidianamente in contatto anche con i papà che hanno dei figli che sono un peso, che sono una sofferenza, ma soprattutto il cuore di una madre. Sarà perché la donna l'ha portata in sé, sarà perché la donna ha una sensibilità tutta speciale rispetto a noi maschi, sarà perché il Signore ha permesso questo, ma veramente io vedo quanto soffre il cuore di una madre per il proprio figlio che non cammina bene. Che non cammina bene da tanti punti di vista, spesso per la salute. C'è in giro ancora tanti figli malati, di tutte le età, sapete, anche di 30 anni. E la madre, anche papà, ma è la madre che lo accudisce, è la madre che porta il peso. La madre porta il peso per la vita disordinata di un figlio, che magari è caduto dentro nelle compagnie che l'hanno portato non solo all'uso delle sostanze, ma l'hanno portato anche, guardate, c'è in giro ancora figli ladri, che rubano, che non lavorano, ce n'è ancora, non è solo di una volta. Figli che non si dedicano al lavoro, figli che frequentano compagnie che li tirano su strade di perdizione, di delinquenza. È difficile vedere delle femmine che cadono in compagnie e si legge sui giornali di ammazzamenti, di regolamento di conti, ma per i maschi ancora oggi è una cosa purtroppo. E infine figli che si distaccano da Gesù, si distaccano dalla fede, e per tante mamme, assieme agli altri motivi, anche questo è un grave motivo di sofferenza. Allora io direi, offriamo questa Santa Messa per tutte le mamme che patiscono come la addolorata per i loro figli, soprattutto per questo aspetto della fede, perché se Gesù è chiamato la luce delle genti, noi possiamo dire che questi figli sono nelle tenebre. Io leggevo oggi un messaggio bellissimo di Medjugorje del 2014, mi pare, in cui l'apparizione diceva: io amo tutti i miei figli, quelli che mi amano e anche quelli che non mi amano e che sono ancora nelle tenebre. Chiediamo che tutti i figli aprano gli occhi anche su Gesù, perché la fede, lo dicevo già un'altra volta, è una parola astratta. Noi dobbiamo credere in Gesù, nella adorabile, nella divina persona di Gesù, il figlio di Maria, Gesù di Nazareth. Allora preghiamo Gesù presentato al Tempio, preghiamo Maria purificata dal parto, perché sostengano le mamme che hanno dei figli che tribolano, ma soprattutto le mamme addolorate perché i loro figli hanno perso la fede. A noi ci sembra una cosa da poco, ma il cuore di una madre patisce molto per questo, perché capisce che se un figlio si perde per tutti gli altri motivi è grave, ma se perde anche la fede, veramente non ha più il senso della vita. Se uno ha perso la fede in Gesù, è perso, è smarrito. Perché sta al mondo? Perché si vive? Perché si muore? Se non per incontrare il volto benedetto di Gesù. E così sia.